America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. I don't know if a lot of you have heard this, but the CIA annex had actually had taken a couple of Libyan militia members prisoner, and they think that the attack on the consulate was an effort to try to get these prisoners back. So that's still being vetted. Paula Broadwell, l'amante del generale David Petraeus, con cui ha avuto una relazione, ci ha detto un portavoce del generale, a partire da un paio di mesi dopo il suo ritorno dal fronte, e quindi l'anno scorso, fino a 4 mesi fa. Questo spezzone che vi ho fatto sentire risale al 26 ottobre e la Broadwell dice, parlando a Denver, all'Università di Denver, in un convegno, dice: beh, non so se voi avete sentito questa storia, ma insomma l'attacco al consolato di Bengasi c'è stato perché i ribelli sapevano che c'erano 2 prigionieri in rendition, quindi 2 prigionieri segreti che la CIA aveva preso e teneva segretamente e illegalmente per interrogarli, e che questo annesso al consolato serviva a, diciamo, al ruolo di caserma prigione. Questo è un fatto totalmente nuovo. Lei lo dice dicendo: ma adesso si stanno facendo delle verifiche per capire se davvero quella fosse la storia o meno. Però è una bomba. È una bomba per 2 ragioni. La prima ragione, perché dimostra che questa signora, se la storia è vera, era in possesso di informazioni straordinariamente delicate, informazioni segrete. Chi gliela date? Ecco, ci si domanda se possa aver avuto accesso alle email o ai documenti di Petraeus. Petraeus nega di aver dato qualunque documento segreto, lei stessa nega di averli ricevuti, ma l'aspetto più importante, e qui passiamo da quelle che sono state tesi fasulle di complotto di Obama che ha usato l'FBI per colpire Petraeus, oppure dell'FBI che si voleva vendicare della CIA e così via, così via, passiamo invece al risultato che, da un'inchiesta che alcuni hanno considerato tra virgolette ipocrita perché ha a che fare col sesso, quindi questa America puritana eccetera eccetera, ma un'inchiesta che poi tira fuori delle altre cose, e le altre cose sono molto concrete, perché Obama ha ordinato di non fare più la rendition, e per quel che ne sappiamo, per quel che ne sa il Congresso, la rendition non c'è più. Se da questa inchiesta dovesse emergere che la rendition invece esiste, beh, allora tutta la vicenda dell'attacco a Bengasi e della politica stessa dell'amministrazione Obama potrebbe essere vista ed interpretata in un modo completamente diverso. Dunque la vicenda si scalda, già oggi dovrebbero esserci delle audizioni in Parlamento con funzionari della CIA e dell'FBI per cercare di costruire come è andata questa inchiesta, poi ci saranno delle audizioni anche su Bengasi. Ho con me ai microfoni di America 24 Maurizio Molinari, corrispondente della Stampa, con cui abbiamo lavorato in parallelo su questa storia. Maurizio, beh, non si finisce mai di eccitarci qua. Prima l'uragano, poi le elezioni, poi la tempesta di neve e poi Petraeus. Buongiorno Mario, un colpo di scena le dimissioni di Petraeus, nessuno se lo aspettava. Certo, naturalmente la storia dell'amante, la relazione segreta, tutto questo non fa che solleticare la curiosità pubblica e, diciamo anche la verità, la volontà un po' di rilassarsi dopo la lunga battaglia elettorale. Queste sono le storie che la gente segue con maggiore interesse. Ecco, scusa Maurizio, allora una domanda a bruciapelo, perché abbiamo saputo un paio di giorni fa che c'è anche una seconda donna, anzi una terza donna se vogliamo includere la moglie, cioè Jill Kelly, che è quella che poi ha fatto partire la denuncia, che riceveva queste email minacciose. Ma secondo te la Kelly ha avuto anche lei una relazione con Petraeus? Questo non lo sappiamo ancora, ma qual è il tuo istinto? Il mio istinto è che c'è stato un contatto fra le due donne, che Paola ha avuto la sensazione che l'altra si stesse avvicinando a Petraeus e che quindi ha difeso la sua relazione con i denti e con le unghie, sostanzialmente allontanandola nella maniera più energica possibile, e questo ha fatto partire la denuncia. Secondo me c'è stata una lite feroce fra le due donne, a prescindere se la seconda davvero ha avuto anche lei una relazione con Petraeus. Ecco, un ultimo punto, sempre relativo a questa relazione, perché è un fatto non secondario, ma il codice militare prevede che l'adulterio sia perseguito in corte marziale e quindi si può essere non soltanto dimessi dall'esercito, ma anche condannati. Se emerge che Petraeus ha avuto la relazione con Paola prima di diventare civile, quindi quando era ancora in Afghanistan, beh, per il generale c'è un problema potenziale di corte marziale, o sbaglio? Sì, devo dire che questo è l'elemento che mi ha sorpreso di più. Io come te seguo Petraeus dai tempi dell'Iraq. Petraeus è un grandissimo generale, è l'uomo che ha sconfitto Al-Qaeda, che ha stabilizzato l'Iraq, che ha inventato la guerra dei droni, che ha inventato la cooperazione fra intelligence e forze speciali. L'eliminazione di Bin Laden è stata firmata da Panetta, ma con la collaborazione di Petraeus. Sicuramente nella stagione post 11 settembre le maggiori vittorie militari ottenute dagli Stati Uniti contro i terroristi, chiunque essi siano, sono state firmate o cofirmate da David Petraeus. Come sia stato possibile che un generale di tale valore e di tali risultati scivoli su una vicenda del genere, sinceramente lascia qualche perplessità e pone molti interrogativi. Ecco, interrogativi di che genere? Sulla sua tenuta, diciamo, sul fatto che si sentiva invulnerabile, invincibile, quindi o ha ceduto semplicemente al peccato della carne? È possibile che, sai, i grandi quando sono molto in alto si sentono invincibili e quindi fanno delle cose che altrimenti in condizioni diverse non farebbero. È anche vero che la stagione afghana per Petraeus fu una stagione che arrivò dopo la battaglia con Al-Qaeda in Iraq, che fu davvero dura. Quindi è possibile che in quel momento il generale si sia rilassato. Ricordiamoci che quando lui arrivò in Iraq nel 2007 sul mandato di Bush, l'Iraq stava andando letteralmente a ramengo, cioè era un paese ingestibile. Lui fece l'accordo con le tribù sunnite, lui si trasferì fisicamente nel triangolo sunnita, cioè lui trasformò l'Iraq da una sconfitta a una vittoria dell'esercito degli Stati Uniti. Poi naturalmente il risultato fu quello di andare al comando centrale delle operazioni a Tampa e poi da lì a gestire l'Afghanistan con Obama. Veniamo agli sviluppi più recenti, quelli di cui parlavamo in apertura, cioè al rischio che possano esserci stati, come ha detto la Pola, delle operazioni di rendition. Questo sarebbe gravissimo. Tu ci credi o no? Cosa pensi che sia successo davvero? Io penso che gli Stati Uniti sono una nazione dove la realtà viene a galla e penso anche che ancora noi non sappiamo esattamente quello che è avvenuto la notte dell'11 settembre con l'assalto al consolato generale americano a Bengasi. Non sappiamo chi ha fatto l'assalto, non sappiamo come è stato ucciso l'ambasciatore Stevens, non sappiamo perché si è spostato dalla sede del consolato alla sede della CIA, non sappiamo perché l'edificio della CIA non è stato difeso dal Pentagono come avrebbe potuto, cioè ci sono una serie di interrogativi che hanno a che vedere con una delle zone più pericolose del mondo e con il funzionamento del sistema di intelligence militare degli Stati Uniti che quella notte hanno fatto cortocircuito. E quindi siamo stati sorpresi da queste ultime rivelazioni sull'ipotesi della rendition della sede della CIA di Bengasi e potremmo esserlo nei prossimi giorni da altre rivelazioni. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, devo dire, la vicenda Petraeus, CIA, FBI, insomma, si va facendo sempre più complicata. In questi giorni è uscito il nuovo film di 007, quindi vi propongo come canzone del giorno, perfettamente in tema agenti segreti e misteri, Goldfinger, nell'interpretazione di Shirley Bassey, un classico di 007. Goldfinger, he's the man with the Midas touch, a spider's a cold finger beckons you to enter his web of sin. Da New York, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!